Il silenzio. L'uomo della nostra civiltà vive nel rumore. Non sa più che cosa è il silenzio. La vita nasce nel silenzio. L'uomo muore nel silenzio. Dio si incontra nel silenzio. Il silenzio è indispensabile alla vita umana. Esso stimola a pensare, serve a non sbagliare. Dispone ad ascoltare, aiuta a pregare. È necessario nella vita avere momenti di silenzio, tacere di sé e umiltà, tacere degli altri e carità, tacere in certi momenti e saggezza, tacere nell'insicurezza e prudenza, tacere quando tutto va storto e pazienza. L'uomo autentico ama il silenzio, medita il silenzio, decide nel silenzio. Non si deve aver paura del silenzio. Esso è maestro di verità e gusto di profondità, e pace, gioia, serenità. È il modo per sintonizzarsi con Dio. È il linguaggio adatto per capire Dio. Ascolta.